Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Mi viene in mente quando il nostro grande presidente Sergio Mattarella ricevette tutti gli atleti olimpici e paralimpici ai Giardini del Quirinale e tutti medagliati, e a un certo punto nel suo discorso posò il foglio e per dar forza al concetto che stava passando mi chiamò in causa, no? Allora io mi sentii gli occhi di tutti, ovviamente enormemente lusingato, ma mi sentii gli occhi di tutti addosso, mi girai verso il mio compagno e dissi: oh, ma quanti ne ho imbrogliati io nella vita. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Passami la battuta, mi è una notizia che mi taglia le gambe, perché l'ho scoperta nel momento stesso in cui tu me la comuni. Non so come commentarla se non con un po' di rammarico. L'anno prossimo sarà ancora più complicato, però non credo che non stia già pensando a come farlo. Si rimette tutto in discussione, ma chi se ne frega. Quindi io ho intenzione di farmi trovare pronto, cioè in testa il triathlon, ho in testa chissà, magari anche la finale mondiale dell'Ironman a Kona, che ho già affrontato due volte e mi piacerebbe rifarla. Insomma, cose da fare, credimi, ne sono mille, una insomma si potrà pur fare. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Via che la strada è lunga. Cose da fare ce ne sono mille nella vita, ad Alex Zanardi ce n'è una più importante di tutti in questo momento per la seconda volta, cioè riprendersela quella vita fuori da ogni tentazione di cadere nella retorica. Carissimo Carlo, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Sì, ciao anche perché... a te Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Giovanni, ciao Carlo, ciao. Allora ragazzi, a me è venuto in mente noi, quel 24 marzo lì in cui l'abbiamo ospitato qui a questi microfoni, gli abbiamo comunicato che da pochi minuti le Olimpiadi erano state rinviate di un anno, lui ha detto: questa notizia mi taglia le gambe, e abbiamo riso come tutti, ma il primo ha riso lui, perché lui era abituato ed è abituato a questo tipo di autoironia. E poi però per mezz'ora ci ha raccontato di un anno che avrebbe riempito di mille cose per ripresentarsi non più a 54 ma a 55 anni all'appuntamento con le Olimpiadi. Ora, fuori da ogni tentazione di cadere nella retorica, però a me Carlo è veramente venuto in mente l'altro giorno quando è arrivata quella notizia. E beh, non solo a te Giovanni, anche perché eravamo insieme a questi microfoni ospitando Alex Zanardi. Quindi è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, però hai ragione quando dici, hai ripetuto due volte, non cadiamo nella retorica, perché Alex per la seconda volta sta combattendo questa battaglia. Oggi arrivano notizie, immagino ne parleremo. Ora, ottimismo mi sembra tanto, fiducia mi sembra presto, però ci sono segnali, quindi siamo lì con lui e teniamo compagnia a tutti quanti pensando a lui a quel momento. Pier. Beh, lo sport è una grande famiglia, quelli che lo praticano ovviamente sono in cima alla piramide di questa famiglia, quelli che lo seguono sono comunque parte, noi che lo raccontiamo siamo comunque parte di questa famiglia. Lo sport ci insegna a essere migliori, ci insegna la meritocrazia, ci insegna tante cose anche un po' retoriche banali, e lui è il migliore di tutti, o comunque fra i migliori di tutti, perché è uno di quelli che indica la strada continuamente e che l'ha sempre fatto. Noi che abbiamo avuto e abbiamo la fortuna di conoscerlo lo sappiamo direttamente, sappiamo che non è una così un'etichetta esterna, è la verità, cioè lui è realmente così, è realmente così, è realmente quello che guarda la parte che rimane anche in mezzo a una grande tragedia, e gli sono già capitate, no? Lui guarda sempre la parte che rimane, lui guarda sempre l'obiettivo possibile, e in questo momento l'obiettivo è vivere. Il secondo obiettivo è vivere bene, perché insomma abbiamo sentito i vari bollettini medici, ovviamente ci sono delle incognite, sarebbe ipocrita nascondercelo sulla qualità eventuale di una vita, se tutto andrà come deve andare, cioè con una guarigione, con un'uscita dal coma, però insomma ci sono chiaramente tutta una serie di cose che non dipendono neanche da lui. Lui è un grande lottatore ed è meraviglioso, ovviamente, quello che raccontava Crosetti qualche tempo fa, quando ci si trova di fronte a cose imparabili della vita, la volontà conta, la forza conta, lui è il numero uno dal punto di vista, però conta anche il destino, conta anche l'oggettività, la razionalità, il tipo di trauma che ha avuto, il lavoro dei medici, contano mille altre cose, quindi purtroppo non dipende tutto da lui, perché se dipendesse tutto da lui non avrei dubbi. No, certo. Sul fatto, e anche questa è un po' retorica, no? Quella di chi lotta, certo. Lottano tutti, poi c'è chi ha una fibra particolare. Lui lotta e sicuramente aiuta, sai, ci sono la psiche umana, allargando il discorso, è uno dei settori del corpo umano con più misteri. La scienza ci ha portato sulla Luna ormai 50 anni fa, la tecnologia, tutto quello che volete, però il cervello umano rimane un mistero. E sappiamo che il cervello può tanto, ma che non può tutto. E quindi, insomma, noi in questo momento siamo qui, come tutti, che speriamo, che preghiamo, che possa vivere, che possa vivere bene, perché quello che sarebbe fantastico sarebbe ritrovare la sua lucidità, la sua ironia. Questa cosa qui speriamo che incidente non l'abbia portata via. Poi se vuoi ne parliamo, c'è l'impatto sulla vita di noi tutti, come ci siamo scoperti tutti. Ma adesso ne parliamo, perché guarda, fuori da ogni tentazione di cadere nella retorica, e lo dico per la terza volta, spero l'ultima, a me piace tanto oggi parlare del perché Alex Zanardi ha compiuto nel dramma questo miracolo di mettere un po' tutti insieme. C'è anche chi scrive, non è che si stia un po' esagerando, 349-238-6666, secondo me no, e adesso cerchiamo di spiegartelo, però questo è una grande cosa che sta accadendo, ed è la seconda volta che accade in pochi mesi in questo paese che spesso è diviso più che unito. Saluto Giovanni Bruno, ciao Giovanni. Ciao Giovanni, ciao Carlo, ciao Piero. Ciao Giovanni. Ciao. Allora, avete fatto riferimento alla strettissima attualità. Alle 18 ci sarà un nuovo bollettino, ve ne daremo conto, ve ne darà conto anche il GR con gli aggiornamenti che sta dando da due giorni a questa parte, però vi faccio sentire quello della tarda mattinata di oggi. Alex ha trascorso una notte in condizioni di stabilità e le condizioni cardiocircolatorie anche quelle sono stabili e adeguate. Il neuromonitoraggio che mettiamo in atto in questi casi ha mostrato una certa stabilità, anche se questo dato va preso con cautela perché il quadro neurologico è quello che resta naturalmente grave. Quindi in linea generale le condizioni cliniche sono stabili, siamo piuttosto soddisfatti, anche se naturalmente questo non ci consente di escludere possibili evoluzioni o complicanze. Pertanto il quadro e le condizioni cliniche possono essere definite a prognosi naturalmente riservata. Allora, questi microfoni sono aperti anche per voi. 800 24 00 24 per chiamare, intervenire in diretta, numero verde. Noi siamo in diretta fino alle 19 per parlare di Alex Zanardi, per parlare poi del calcio, perché siamo qui anche a raccontarvi una domenica, la prima domenica di ritorno del pallone. E per quanto riguarda il campionato, dopo i tre mesi di sospensione, vi faremo sentire le parole di Maurizio Sarri, parleremo dei rischi che corre, parleremo di Conte che ha rilanciato e rilancia le ambizioni scudetto dell'Inter, quindi vorrei anche sapere che cosa ne pensate, cioè se davvero secondo voi l'Inter può inserirsi in questa corsa scudetto. 800 24 00 24. Giovanni Bruno, come rispondiamo all'amico che dice non è che si sta un po' esagerando con Zanardi? Vabbè, dare spazio ai social è normale che sia così, c'è sempre qualcuno fuori dal coro. No, assolutamente no, anche perché basta vedere chi ha raccontato di lui, no, l'avete detto voi, in pochi minuti avete riassunto delle cose meravigliose, Pier, Carlo, te, poi se tu leggi, non lo so, Gramellini, meraviglioso la sua descrizione, che non è più il caffè ma è diventato caffè cappuccino con pastarelle, perché è stata una bellissima pagina di racconto, Pier Bergonzi, Giorgio Terruzzi, cioè sono delle firme importanti che hanno descritto in tutto e per tutto e sempre con dei dipinti, con delle pennellate completamente diverse, perché l'avete detto anche voi, cioè qualunque cosa uno intavolava con Alex e lui riusciva a dipingertela in una maniera completamente diversa ogni tre secondi, dalla battuta, l'umorismo, l'ironia, quella della notizia mi ha tagliato le gambe, ma Io ricordo sempre quella lì che quando gli hanno detto, dice, guarda, devi andare a fare l'Ironman a Kona la prima volta, mi raccomando, perché sai, la guai, ci stanno gli squali nel primo tratto. Dice, ma che me frega, io l'ho già dato, che si attaccheranno a qualcun altro. E quindi, oppure nella descrizione successiva, diciamo, quando siamo partiti nel tratto di nuoto, la cosa che mi dava più fastidio è che prendevo calci da tutti, non potevo restituirli. Questo è Alex Zanardi. Dopodiché quello che sta avvenendo è qualcosa di bellissimo dal punto di vista di vicinanza di tante persone nei confronti di colui che ha insegnato tante cose, che vuol dire, al di là della, come avete detto voi, retorica del rinascere, ricostruire grazie allo sport, grazie alla voglia di vivere, perché non è da poco, ma secondo me lui anche ha fatto un passo ancora più grande. Ha sdoganato che cosa vuol dire la disabilità, il paralimpismo. L'ha completamente sdoganato, l'ha stravolto, l'ha reso popolare, l'ha reso di facile consumo. Ha fatto, secondo me, ed è molto importante da fare come ragionamento, buttare quelle maledette coperte, oppure quel maledetto nascondersi di ragazzi disabili che si sentivano meno amati anche nei confronti delle persone. Alex Zanardi in primis, ma metto dentro anche Pistorius, metto dentro Bebe Vio, Francesca Porcellato e tanti come loro, hanno sdoganato questo, hanno fatto buttare quelle maledette copertine anomale che coprivano le gambe o qualcos'altro perché si sentivano in difetto. Sì, ecco, questo secondo me è il grandissimo trionfo di Diale. Si sentivano di mancare in qualcosa. Allora, c'è il traffico, poi ripartiamo da qui, 800 24 00 24, e a proposito di storie di guerrieri resilienti, mi piace molto ricordarvi, lo ha fatto prima con un messaggino che ci ha scritto Massimo Mauro, uno degli amici di questa trasmissione, che oggi è la giornata mondiale della SLA, della lotta alla SLA, che è un'altra malattia terribile. E mi piace accomunare, insomma, la vicenda di Alex Zanardi, il suo profilo, con il fatto che oggi celebra anche questa giornata mondiale e parliamo di guerrieri resilienti nel caso della SLA davanti a una malattia che non ha cura. Il traffico, un minuto e torniamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Tutti convocati. Stanno arrivando tanti messaggi, 349-238-6666, chi ci scrive che non può morire perché è il simbolo che tutti ce la possiamo fare. Mi piace ricordare che tanti dei ragazzi di cui parlava Giovanni Bruno, cui ha tolto la vergogna di dover coprire la disabilità, li ha anche aiutati poi a entrare nel mondo dello sport paralimpico, e ci sono in giro dei figli di Alex Zanardi. Volevo ripartire però con te, Carlo. Do anche un aggiornamento che invece riguarda la parte dell'inchiesta, perché c'è anche chi scrive a proposito di leggerezze. Oggi si è scritto su un giornale che al momento dell'incidente stava realizzando un video con il cellulare, è stato tutto smentito dalla procura di Siena, quindi non era al telefonino, si stanno facendo degli accertamenti, ma insomma questa cosa è stata smentita. Mi piace ripartire da un pensiero che ho fatto, Carlo, e cioè che in realtà Alex Zanardi ha unito tutti in queste ore, perché poi in realtà un po' tutti ci riconosciamo in lui, pur riconoscendo il fatto che abbia delle qualità superiori. Ma la verità è che Alex Zanardi è l'italiano perfetto, cioè resiliente, capace di vincere quando c'è da soffrire, da ripartire in contropiede. Quante volte l'abbiamo raccontata anche in altri sport questa cosa? Sì, sì, è verissimo, Giovanni, ma anche dal punto di vista del sense of humor, no? Perché Giovanni prima ricordava, e abbiamo risentito un miliardo di battute che Zanardi ha fatto su di lui, sulle sue condizioni, mi piace pensare che anche questo sia un tratto tipicamente italiano. Quanto alle smentite di cui dicevi, cioè io trovo raccapricciante che possano uscire fake news di questo tipo, anche perché Zanardi ha corso in Formula 1, per chi non se lo ricordasse, è un atleta professionista, Cioè, la cosa di cui sarei più stupito è un'imprudenza che può aver commesso, magari questo lo scopriremo, guidando il suo strumento di lavoro, però non posso credere che abbia commesso, che potesse aver soltanto pensato di commettere un'imprudenza di quel tipo. Quindi non so da dove siano uscite queste sciocchezze che sono state smentite, però anche su questo bisognerebbe riflettere. Carlo? No, Giovanni. Ma io volevo no, allargare Pier. Il concetto che diceva Giovanni Bruno, perché quello che ha fatto Zanardi per tutto il movimento paralimpico è clamoroso, e quello che tutto il movimento paralimpico fa per lo sport in generale, per la società in generale, è clamoroso, perché allargare il concetto dalla disabilità, dalla forza di superare un problema, un incidente, un trauma, penso, ma ci si arriva velocemente a trovare il motivo per il quale il movimento paralimpico è così importante, perché tutti abbiamo piccole o grandi sconfitte nella vita, ed è proprio lo spirito di Zanardi, lo spirito di Beppe Vio, lo spirito di tutti quelli che in maniera così clamorosa, così spettacolare, così plateale riescono a ripartire con forza, che è una spinta per tutti noi, per i tanti piccoli e grandi problemi della vita, per le tante piccole sconfitte. Quindi non c'è mai disonore, quando poi riparti con dignità, riparti con forza, riparti tirando fuori il meglio da te stesso, delle piccole e grandi battaglie della vita, sei sempre un vincente, non c'è niente da fare. Questo vale per tutti, vale per chi ha problemi economici, per chi ha problemi d'amore, per chi ha problemi di lavoro, per chi è in difficoltà, per chi è stressato. Questa cosa qui è la cosa più bella del movimento, è la cosa più spettacolare, è lo sport in assoluto, ma che questo senso e questo valore viene estremizzato dal movimento paralimpico, perché è proprio la capacità portata al quadrato, al cubo, di saper reagire alla difficoltà. E poi Zanardi sicuramente ci mette un elemento suo, che è quello che stiamo ricordando, di straordinaria forza, insomma è un genio della comunicazione, ma nel senso più bello, più positivo, è un collega, quello che ha fatto lui a sfide, leggevo i pensieri di Simone Ercolani, cioè quello che ha fatto lui a sfide è straordinario, no? Perché è un collega bravissimo anche nel raccontare quella storia lì. Quindi no, recentemente ha fatto anche quella del 2 giugno, appunto, esatto. Quindi è tutta questa cosa qui, non è soltanto sport, cioè, no, questo no. Ci fa capire quanto lo sport sia vita, quanto lo sport sia fondamentale per tutti noi, perché non è soltanto il risultato di una gara, non è soltanto chi vincerà la medaglia o chi alzerà la coppa, è dare un significato alla vita. Chi vince, chi arriva secondo e chi arriva uno. E anche un grande processo di identificazione. 800 24 00 24, Lia da Catania. Lia. Buonasera. Buonasera. Senta, io sono molto emozionata e premetto che mi interesso poco di sport, ma in questo caso, guardi, non hai idea quanto io ammiri questa persona, che forza che mi sta dando. Perché a proposito di sconfitte, questo signore ha parlato prima di me, parlava di sconfitte, e ne abbiamo avuto tante tutti. In questa emergenza le sconfitte sono venute fuori a galla e ci hanno distrutto, tormentato, almeno a me. Io sono una musicista, il mio interesse è la musica, è tutto. Adesso in un piccolo intervallo ho aperto la radio e sono contenta di aver ascoltato. Sto pregando tanto, tanto, tanto che ancora lui possa vivere e ci possa dare tanta forza, tanta gioia, tanto entusiasmo. Guardi, mi viene così difficile parlare. Sento una commozione immensa che non so descrivere. Mi viene anche difficile parlare. Pensavo, ho telefonato così, dico magari. Beh, ma a noi fa piacere, Lia, perché poi è anche un modo, insomma, per attraversare un momento che è in questo momento di preoccupazione e di dolore un po' per tutti. Giovanni, te lo dice tutti. Allora ritorniamo al discorso di prima. È un processo di immedesimazione. Ecco che cosa vuol dire l'esempio, cioè quanto ha seminato Alex in funzione, cioè lui. È stato un buon pilota di Formula 1, un buon pilota di IndyCar, ma non è stato nulla rispetto a quello che è diventato nella sua seconda vita. dicevamo, ho detto prima il discorso dello sdoganamento paralimpico, ma voi pensate che nel 1988, tanto per dare un'ulteriore puntualizzazione, quando Francesca Porcellato, che è una delle più, passatemi il termine, antiche atlete che ha partecipato ai giochi paralimpici, 88, andava a Seul per i giochi paralimpici, era con altre atlete paralimpiche, e una signora le si è avvicinata e le ha chiesto: ma in quale santuario andate? Adesso sono riconosciuti come atleti, adesso li riconoscono perché sono stati visti. Ecco, lo sdoganamento è anche quella maniera non pietistica nel commentare o nel parlare di se stessi, e questo penso sia un altro elemento più importante. Per il concetto invece delle fake news, allora io ho corso con Alex tante volte, perché ho fatto la maratona delle Dolomiti con lui tantissime volte, e vi assicuro che Alex non ha mai preso una macchina fotografica o un cellulare durante la corsa, anche perché le sue mani sono abbastanza impegnate a spingere. Un ciclista può ancora fare fesseria, prendere magari in mano un cellulare perché spinge con le gambe e con una mano, lui le due mani e basta. Quindi già quella, passatemi il termine, una cagata di ragionamento. Seconda cosa, se stai in discesa a 50 all'ora, le mani le devi tenere ben salde. La difficoltà di quel mezzo io l'ho visto, lui in discesa ritornava pilota e meno ciclista, andava, attenzione, andava, però quella macchina, quell'handbike che lui si è costruito nel suo garage, eccetera, è abbastanza pericoloso, lui lo sapeva dominare, poi ogni tanto poteva sballare. La realtà è che fondamentalmente nelle gran fondo, nelle maratone o tante altre cose, le strade sono chiuse. Cosa, quindi, che, diciamo, cosa che non era in questo senso. Caso, ecco, e questo è uno questo dei miei aspetti. Questo caso è una pedalata di amici chiarire. Molto bella, con un obiettivo fantastico, quello di obiettivo tricolore. Aspetta Carlo, perché allora dobbiamo salutare e ringraziare Giovanni Bruno. Ciao Giovanni. Vi ciao, ringrazio dottore, io, presto. Vi ringrazio moltissimo. Adesso Carlo, abbiamo un minuto di pausa e restiamo in attesa del bollettino delle 18 e poi ci tuffiamo invece nell'attualità del calcio che continuiamo a raccontare. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta, e raccontiamo partendo dal sogno scudetto di Conte. Ieri l'ha svelato, ne parlavamo da una settimana, ma a me ha sorpreso molto sentire Conte esporsi così come ha fatto ieri. Un minuto ne parliamo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Tutti convocati. La prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo cercare di vincere la partita in recupero contro la Sampdoria. Vincendo la partita in recupero contro la Sampdoria significa andare a 6 punti, mancando 12 partite alla fine del campionato, non è che c'è un distacco abissale. I margini di errore per noi saranno di meno rispetto a chi ci precede davanti, però al tempo stesso c'è la voglia, c'è l'entusiasmo, c'è la passione. Ripeto, abbiamo lavorato veramente tanto proprio, e penso che la squadra si è cresciuta ancora di più sotto tutti i punti di vista, quindi ho molta fiducia non solo per il presente ma anche per il futuro. Allora, 800 24 00 24, la domanda che faccio agli amici a casa è diretta: l'Inter può vincere o no questo scudetto? L'ha evocato ieri Conte, l'idea che il distacco non sia abissale vincendo questa sera il recupero con la Sampdoria. Io sono rimasto, Carlo e Pier, abbastanza sorpreso da questo cambio di comunicazione di Conte. Non so voi, Carlo. No, io... Pier, no, Giovanni, no, recuperato, sì. Conte è stato molto onesto, nel senso che una settimana fa eravamo qui, soprattutto Pierluigi l'ha ripetuto diverse volte, l'Inter nelle semifinali di Coppa Italia era stata delle quattro la squadra più convincente. Giustamente Conte ha ricordato che vincendo recupero con la Sampdoria va a 6 punti, che poi in realtà sono 7, ripeto, perché c'è il doppio confronto negativo con la Juve. Certo, il doppio confronto, però sposo l'odio Chiellini di qualche tempo fa. Adesso recuperiamo il collegamento con Carlo. Pier? Allora, confermo quanto aveva detto la buona Inter, anche se è soltanto un indizio. Sono d'accordo con te, nel senso che un po' di, non dico di sorpresa, però insomma è una notizia il modo in cui Antonio Conte, che solitamente è molto prudente nelle dichiarazioni, insomma, si è espresso in queste ore dicendo ottime sensazioni, poi magari mi sbaglio, ma ottime sensazioni, e facendo apertamente un riferimento alla possibilità di vincere lo scudetto. Io rispondo alla tua domanda, la domanda è l'Inter lo scudetto, la risposta è sì. Poi questo non vuol dire che sia la favorita, è la terza favorita, però è evidente che insomma, se guardiamo il cammino dell'Inter in questo 2020, era stato negativo. La vittoria di Udine era stato uno dei pochi... Da un certo punto di vista la pausa, no? Rappresenta una rottura che può favorire. La pausa è diciamo un time out, e quindi anche dal punto di vista psicologico un lungo time out di 3 mesi spariglia tutto, quindi insomma ti dà la possibilità di guardare le cose in maniera completamente diversa rispetto a prima. Ora, il fatto che Conte, che ripeto, solitamente è molto prudente, si esprima così, diciamo, apre la possibilità che l'Inter sia veramente molto bene. Stasera ci togliamo già un dubbio. Sì, certo, è già un bivio, saranno tutti bivi. È un calendario morbido nelle prossime partite, per quello che può contare, però hai ragione, è una notizia. Cioè, sentire Conte parlare così, tra l'altro dopo un periodo, quello della pandemia, e insomma quando c'erano tutte le discussioni sulla possibile ripresa, in cui da un punto di vista di posizione politica l'Inter non era stata la più entusiasta, no? Non era stata fra quelle che sembravano avere tutta questa voglia di ripartire a tutti i costi. C'è una componente ovviamente di sensibilità, sappiamo anche che l'Inter ha una proprietà cinese, Zhang lo sappiamo benissimo, è stato toccato, quindi c'è secondo me questo elemento che non va sottovalutato, però insomma era lecito pensare che ci fosse un atteggiamento un pochino più prudente rispetto ad altri. Le parole di Conte... No, ma a me ha molto sorpreso, Pier, che noi una settimana fa eravamo qui a commentare parole di Conte che diceva ci vuole tempo per costruire le vittorie, dopo la sconfitta con il Napoli abbiamo fatto una parte del percorso, ma non si improvvisa dall'oggi al domani, soprattutto qui dove non si vince da 10 anni. Passata una settimana e ieri insomma ha usato dei termini diversi, abbiamo recuperato Carlo e c'è con noi anche Marco Barzaghi. Ciao Marco. Un abbraccio, un saluto a tutti voi. Volevo chiedere se sei sorpreso di questo cambiamento comunicativo di Conte. Ma un pochino sì, perché comunque non era mai uscito così allo scoperto, però forse è anche un segnale che ha sentito un'aria un po' dimessa, soprattutto dopo la sconfitta di Napoli, anche molti processi nei suoi confronti, e ha deciso di suonare un po' la carica, anche perché veramente l'Inter stasera si gioca forse più di una stagione, perché dopo le eliminazioni da Champions e Coppa Italia non può permettersi di non vincere contro la Sampdoria e di mollare anche il campionato così presto. C'è chi ci scrive: Conte sta scherzando, il prossimo anno forse l'Inter può dire la sua ancora per riaprire la lotta allo scudetto. L'Inter stasera deve vincere, la Juve deve perdere a Bologna. Carlo. No, ma dicevo, è realismo quello di Conte, cioè poi ci può sorprendere perché è abituato a stare abbottonato, però è puro realismo, cioè l'Inter vincendo va a 6 punti, il calendario, l'hai detto tu, è tutto sommato favorevole, quindi il mare è favorevole, la squadra c'è, l'allenatore è l'ideale per un mini torneo da 12 partite, quindi ripeto, quello che ha detto Chiellini nell'intervista dell'altro giorno è sacrosanto, cioè sarebbe un grave errore, la Juventus è in difficoltà e poi ne parleremo, sarebbe un grave errore non considerare l'Inter parte in di questa corsa scudetto. Ma a quanti punti si vince lo scudetto? Più o meno di 90? Dai, datemi il vostro pronostico, Pier. Ma io questa roba, questi calcoli ti do altri numeri. L'Inter ha vinto, se non sbaglio, una sola partita nel 2020, correggetemi se sbaglio, no? Due partite nel 2020, quello di Udine e il derby, poi per il resto ha fatto una marea di pareggi e le 2 sconfitte negli scontri diretti, quindi è chiaro che il mood al 10 marzo era un mood da squadra che aveva fallito gli esami. 3 mesi di stop cambiano tutto, poi ti guardi intorno, vedi la Juve che non è brillantissima, guardi la classifica, sì, però serve anche scommettere su come si vince, per quello io ti faccio la domanda. Basta pigliare una calcolatrice, l'Inter ne ha 54, no, facendone 39, cioè vincendo 13 partite come oggi scrive la Gazzetta in prima pagina arriva a 93. Ora è chiaro che è difficile che l'Inter possa immaginare, anche Conte possa immaginare di vincere 13 partite su 13, quindi vuol dire che scommette che si sta abbondantemente sotto i 90. Ma io penso di sì, cioè io penso che sia tra gli 85 e i 90 la quota scudetto quest'anno. È così? Marco? Ma sono d'accordo, e se l'Inter riuscisse a ripetere, diciamo, la partenza che ebbe a inizio stagione con gli stessi risultati, potrebbe veramente giocarsela. Marco, stasera come ti aspetti di trovare Lautaro Martinez? Cioè versione fantasma o versione per crederci, uomo che lotta? C'è bisogno di Lautaro Martinez, ma anche di Lukaku, che sono mancati nelle partite di cui parlava anche Pier prima, nei grandi scontri diretti, e soprattutto Lautaro non è un caso che abbia steccato le ultime sei gare senza gol. La società è stata chiara, gli ha detto che comunque se il Barcellona non riuscirà a pagare quello che chiede, di mettersi il cuore in pace, quindi sarà anche un termometro la gara di questa sera di quello che potrà succedere sul mercato. Carlo, io sono anche curioso di rivedere Eriksen. Non solo tu, Giovanni. Altra chiave. Anch'io sono molto curioso di... No, ma anch'io sono molto curioso di vedere Eriksen, anche perché Pierluigi ha detto perfettamente, cioè... L'Inter è stata la squadra che può aver avuto maggiore beneficio da questo enorme e dolorosissimo e orrendo time out che ha avuto. Può avere il valore aggiunto di Eriksen, ed è un motivo in più per dire, aggiungendo a quanto detto da Marco, cioè devo ritornare Lautaro, deve ritornare Lukaku ai massimi livelli, può avere Eriksen in più. A marzo e a febbraio l'Inter era tagliata fuori da tutto, adesso è dentro tutto, ovviamente salvo la Coppa Italia, però è totalmente dentro a ogni competizione di cui partecipe. Da un punto di vista numerico, se vince stasera, meno 6 a 12 giornate dalla fine. Sì, ripeto che sono 7, però proprio per essere precisi, sì, vabbè, perché sette, Conte lo è stato, ma insomma è stato lievemente impreciso. A 7 punti, a 12 giornate dalla fine, può fare di tutto, cioè ce ne sono 36 in palio. Chi ogni tanto c'è qualche interista, neanche qualche stesso interista, diciamo, negativo o pessimista, che dice siamo al punto dell'anno scorso. Non è vero. No, l'Inter è molto più avanti. Un anno fa l'Inter era lì a lottare per un posto in Champions League. Adesso il posto in Champions League è strablindato per l'anno prossimo, e ha la possibilità, ovviamente deve confidare anche sul piano delle altre, perché comunque non è del tutto padrone del suo destino, però attenzione, ha anche già giocato i due scontri diretti, quindi se facciamo un ragionamento strettamente numerico è vicinissima. Quello che nel 2020 non ha funzionato è stata la tendenza è stata pessima, perché comunque l'Inter ha pareggiato troppe partite e ha perso gli scontri diretti. E io credo, al di là di quello che dice Marco, che è giustissimo, sicuramente ha voluto dare anche una strigliata, un segnale a tutto l'ambiente, però le parole sono state talmente circostanziate, l'entusiasmo è stato talmente genuino e talmente profondo, che io escludo che lui non abbia avuto proprio una bella sensazione. E del resto, anche nelle dichiarazioni post Napoli-Inter, lui era stato molto ottimista, sì, molto era deluso per il risultato, esatto, ma io molto questa cosa positivo, che valuto più le prestazioni dei risultati, e ribadisco, l'Inter mi era piaciuta molto. No, invece noi siamo più pragmatici e valutiamo il risultato, perché poi alla fine l'Inter, che ha giocato molto bene a Napoli, è uscita, insomma, e questo non è un dettaglio, come non sarebbe un dettaglio se questa sera facesse una grande partita e poi finisse 0-0, dico per fare un'ipotesi, perché è chiaro che da qui in poi l'Inter, ma lo ha detto Conte, non ha più alcun margine d'errore se vuole coltivare quel sogno di rientrare nella lotta a scudetto. Allora, abbiamo il traffico. Saluto Marco Barzaghi. Ciao Marco. Grazie a voi, buona serata. Mi tengo Carlo e Pier, e poi vi facciamo sentire Pioli dopo il traffico. I love this game. Tutti convocati. Questo è il suono di una BMW che viene portata in manutenzione. Con BMW Service hai più tempo per ciò che ami. Perché grazie al Service Check-in prenoti gli interventi per la tua BMW in un click. E con Pick Up and Delivery ritiriamo e consegniamo la tua auto dove vuoi tu. Scopri di più su bmw.it e in tutti i centri BMW Service. Tutti convocati. Complicato isolarsi da quelle che sono in questo momento delle dinamiche sul futuro, l'incertezza e voci su Ragnik, possibili incontri che ci sono stati o non ci sono mai stati. È complicato. No, per quanto mi riguarda no, ma non credo nemmeno per i giocatori, perché siamo dei professionisti, siamo abituati a lavorare in mezzo a tante voci e ad avere delle distrazioni, ma noi soprattutto perché mancano solamente 40 giorni non possiamo farci distrarre da nulla. Poi quello che sarà il futuro, e chi lo sa. Questo Stefano Pioli 3 ore fa, poco prima di imbarcarsi verso Lecce, dove domani ore 21:45 il Milan riprende la sua corsa in campionato. Ieri sera è ufficiale che il Verona è un'avversaria tostissima sulla strada dell'Europa League, e così rispondo anche a un messaggio arrivato via WhatsApp. Carissimo Carlo, credo che Pioli abbia veramente davanti una scalata dell'Everest, ma non soltanto per questioni di classifica. Sì, io non credo invece, a differenza di quanto ha detto Conte, a quanto dice Pioli. Secondo me è difficilissimo in questo momento allenare il Milan da esautorato, da sospeso, anche nei confronti dei giocatori. È una sorta di far west in questo momento il Milan, in cui non sono chiare le idee per il futuro. Pioli invece ha chiaro benissimo un obiettivo. Fin qui ha condotto una stagione di grande dignità, anche positiva secondo me, e quindi il suo obiettivo professionale è quello di chiudere positivamente dal punto di vista professionale questa stagione. Poi succeda quello che succeda, il Milan potrebbe trovarsi alle prese di un nuovo caso Gattuso, con un nuovo caso Gattuso che, mandato via dopo una stagione positiva, adesso ha vinto la Coppa Italia a Napoli. Magari Pioli sta pensando anche a quella, accendendo mille rimpianti. Pier, difficile isolarsi, al di là delle parole. Anche se devo dire che anche il Milan, in quel primissimo exit poll di una settimana fa in Coppa Italia, ha dato una sensazione di grande dignità. Ecco, sposo perfettamente la definizione di Carlo. Ha giocato una buona partita difensiva, 10 contro 11, però insomma fuori casa, giocando bene, almeno nella parte difensiva della questione. Sì, non è facile perché il Milan... Al Milan la sensazione è che manchi un po' di qualità nella continuità di rendimento delle partite, tra virgolette, banali, no? E il Milan non ha assicurato in tutta una serie di occasioni importanti, però mi sembra che gli manchi la continuità nel vincere con le piccole e con le medie piccole. Quindi da questo punto di vista lei c'è già un test molto importante. Pioli se la sta giocando in maniera, ripeto, più che dignitosa, questo non c'è dubbio. Sì, ma manca anche tanta qualità, manca anche Ibrahimovic, che sta lavorando per rientrare con la Roma, certo, domenica 28 giugno ore 17:15. Ti chiedo, e poi ti saluto, Pier, se il Milan può fare a meno di Ibrahimovic, questo Milan. Numericamente i gol li ha messi Rebic, però... Sì, però Ibra è un boost, è una spinta sicuramente molto importante, e un effetto c'è stato, secondo me, di entusiasmo e anche dei risultati quando è arrivato. Poi non basta, poi probabilmente non è neanche più Ibra di qualche anno fa, questo va detto, e qualche acciacco sicuramente si è sentito, ma è assolutamente legittimo per un giocatore straordinario come lui. Si può fare a meno di tutto nella vita, però insomma, sicuramente sì, con Ibra è più semplice. Con Ibra è più semplice. Io ero uno di quelli che prima che arrivasse dicevo che era fondamentale che arrivasse, e mi sembra che tutto vada in questa direzione. Non ha avuto un impatto devastante, però ha avuto un impatto sicuramente migliorativo della condizione. Grazie Pier, a domani. Ciao. Grazie per Luigi Pardo. Michele da Roma, 800 24 00 24. Michele. Sì, volevo dire la mia sulla lotta a scudetto. Vai. Secondo me, se la Juventus è quella vista in Coppa Italia, non solo la Lazio ha ottime possibilità, io da tifoso della Lazio lo spero, ma secondo me anche l'Inter, se vince questa sera, cioè diciamo che se dovessi dare una percentuale, darei un 65-35-10, diciamo così. Guarda che 65-35-10, se vado a occhio, fa 110. Ah sì, no. Ah sì, giusto, sì, hai ragione. Sì. Facciamo 60-30-10 allora. No, Michele, stavo scherzando. No. Guarda, dopo il GR delle 18 ripartiamo anche dalla Lazio, questa è la notazione da cui ripartiremo dopo. In realtà nelle ultime due settimane ha viaggiato veramente a fari spenti, e questo io credo possa essere un estremo vantaggio adesso che riparte il campionato, anche se va carissimo Carlo, sottolineato che la ripartenza della Lazio è un parete di sesto grado in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, e questo sarà poi tema dell'inizio della prossima settimana. Allora, grazie Michele. Carlo, resta con me, abbiamo il GR delle 18, poi torniamo e ripartiamo proprio da qui. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore? I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Tutti convocati. Penso che Christian Eriksen è un giocatore adesso che è totalmente, si è totalmente ambientato, si è totalmente calato nella nostra realtà. Cerchiamo di trovare anche delle situazioni di gioco per cercare di esaltare le caratteristiche di tutti i calciatori che ci sono in rosa. Ma devo dire la verità che aspettavo un po' peggio, tipo la parte fisica, ma devo dire che mi sono sentito abbastanza bene. C'erano periodi che pensavo che devo chiamare l'ambulanza perché c'erano 10 minuti al primo tempo a fine che proprio non stavo in piedi, ma poi dopo mi sono ripreso e contento per il risultato, per il gol. Una situazione molto diversa, molto strana se vogliamo, nuova un po' per tutti. E 13 gare sono molte, non dico di fare risultati a tutti i costi, ma di ridare un po' di soddisfazione. E l'augurio più grande, come ho detto prima, che spero veramente presto possano tornare tutti quanti allo stadio e sugli spalti. C'è tanta carne al fuoco in questa prima domenica di calcio di Serie A dopo i 3 mesi di stop. Carlo Genta, ciao Carlo, di nuovo. Ciao Giovanni, eccoci. Ci ha raggiunto Nando Orsi, ciao Nando. Ah, buona serata, ben ritrovati. Allora, intanto ieri abbiamo visto due partite vere, Nando. Il Toro, fra parentesi, rischia la Serie B se non si muove. Sì. Beh, è una delle squadre che può avere delle difficoltà da qui alla fine del campionato per conservare la Serie A. È ovvio che le ultime 7 partite il Toro ne ha perse 6. 3 con Mazzarri, 3 con Longo e una pareggiata. E quindi la situazione non è rosea sicuramente, e quindi deve cambiare un po' marcia, perché poi dopo nelle ultime partite, al di là del Covid e di come si presenteranno tutte quante le squadre, i tanti campionati o anche il nostro campionato possono esserci anche dei risultati che nel girone d'andata, che secondo me è un campionato, mentre il girone di ritorno è un altro campionato, possono accadere, e quindi deve stare molto attento. Carlo, dicevamo prima, la Lazio ha viaggiato negli ultimi giorni, nelle ultime 2 settimane a fari spenti, dopo i fuochi d'artificio di 2 mesi quando Lotito spingeva per ricominciare. Poi intorno alla Lazio è calata una cortina di silenzio. Ora, io credo che sia il modo più intelligente per provare a ripartire, sì. L'ho detto prima, ripartenza a sesto grado, trasferta a Bergamo contro una squadra che comunque corre. Sì, corre, ma comunque vi faccio notare come quelle che abbiamo visto fin qui, è vero che il lunghissimo time out, 3 mesi eccetera eccetera, può aver cambiato tutte le carte, sparigliato tutto, però possiamo notare come certi valori sono stati rispettati, cioè il Milan ha giocato una dignitosa partita a Torino, la Juventus si conferma una squadra in difficoltà. Il Napoli si conferma invece in ripresa fino ad alzare la Coppa Italia, lo stesso Verona conferma di essere la squadra rivelazione di questo campionato, il Torino rimane in bilico sull'orlo della zona. Adesso recuperiamo il collegamento. Sì, alla fine è successo anche in Germania, Nando, no? Poi esatto. È vero che salta il fattore campo, ma chi deve vincere continua a vincere, il Bayern continua a vincere il campionato e così via. L'unica piccola delusione, se vogliamo chiamarla delusione, è la Juventus, che in due partite di Coppa Italia pensavo potesse far meglio, nel senso soprattutto in finale è stata una partita abbastanza così un po' sottotono. È vero che ha incontrato un Napoli molto, molto deciso, molto coperto, però dalla Juventus mi aspettavo di più. Comunque, come diceva Carlo prima, è giusto, perché il Milan è praticamente così ritornato, il Napoli stava crescendo, è andato in crescita, l'Inter che secondo me è stata eliminata, ma delle quattro della Coppa Italia, secondo il mio punto di vista, era quella che ho visto meglio, che ha giocato meglio. E sì, ieri la conferma è stata nelle altre due partite, Verona bene, Cagliari così e così nonostante il cambio di allenatore, Torino e Parma che si è confermata. Cioè, vai Carlo. Si stanno riannodando i fili che avevamo slacciato i primi di marzo, quindi non vedo tutte queste sorprese. D'altra parte anche in Germania si è confermato più o meno lo stesso trend, sono confermati i valori, si sono confermate le posizioni, il Bayern ha vinto lo scudetto eccetera, la Juventus in difficoltà era prima di smettere, è in difficoltà ora, Verona che ricomincia a viaggiare. Secondo me la grande variabile, ripeto, rimane quella dell'Inter, che era praticamente out dai discorsi scudetto prima di interrompersi, adesso invece, complice questa interruzione, torna ad essere prepotentemente in corsa, secondo me. Io credo che in 48 ore tra Bologna, Juventus e Atalanta-Lazio noi in realtà avremo una risposta importante, perché la Lazio, ripeto, della Lazio noi non sappiamo niente in questo momento, sappiamo qualcosa dell'Inter, sappiamo molto della Juventus e non sono state ottime notizie per i suoi tifosi, e per Sarri della Lazio non sappiamo niente, e potrebbe trovarsi prima oppure ancora attaccata alla Juventus, oppure paradossalmente anche a 4 punti, e psicologicamente avrebbe un peso se dovesse andare male a Bergamo e la Juve vincere a Bologna. E io credo che sia già andando, no? Un bello snodo questo qui. Assolutamente sì. Quello di questa settimana. Sì, sì. Atalanta-Lazio è una partita decisiva per le sorti della Lazio. Se la Lazio la passa indenne, cioè se non perde, secondo me si ripropone. Perché poi dopo, se dovesse perdere, l'Inter vince, gli va 3 punti. La Juve col Bologna, se vediamo la Juventus di questo periodo, non se la porta da casa la vittoria. Quindi io penso che già dalla prima giornata di che comincia lunedì già potremo avere dei responsi per vedere, per capire se questo campionato è ancora sarà ancora una corsa a 3 oppure diventerà 2. Vediamo un po'. Allora, abbiamo il traffico, poi vi faccio sentire Sarri che ha parlato pochi minuti fa. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Tutti convocati. Ma è chiaro che perdere un trofeo è sempre un qualcosa di pesante, perché ti dà delusione, ti dà amarezza, però la situazione è questa, non è che possiamo massacrarci, dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare subito alle prossime partite, dobbiamo pensare subito al prossimo obiettivo, gli ho chiesto questo, di non farsi influenzare da niente e di pensare al prossimo obiettivo. Allora, questo Sarri pochi minuti fa, riferendosi alla finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. Nando, rischia o no Sarri? Ci credi a un Sarri che rischia alla fine di questa stagione o anche prima? No, fino alla fine della stagione io penso che sia saldamente in sella, poi dopo faranno delle valutazioni, ma non lo so. C'è un campionato ancora che può essere vinto, c'è una Champions League che è vero che deve giocare contro il Lione che ha perso 1-0 all'andata, ma il Lione praticamente al 2 agosto saranno 4-5 mesi che non gioca, e quindi penso che ancora le possibilità siano intatte. È ovvio che, come ho detto prima, deve cambiare un po' marcia, deve essere un po' più propositiva, e anche i giocatori più importanti, compreso Cristiano Ronaldo e Dybala, devono dare qualcosa in più. E poi dopo è ovvio che l'allenatore deve dare degli indirizzi giusti, precisi, delle motivazioni, ma insomma anche i giocatori, secondo il mio punto di vista, devono dare qualcosa in più. Sì, lui continua a sostenere, lo ha fatto anche oggi Carlo, che sia un problema di brillantezza. Carlo. Giovanni, sì, è un problema di brillantezza, è un problema di condivisione delle idee del programma. Però guarda, tu ti ricordi benissimo, perché eri lì con me in quello studio, lunedì 24 febbraio, quando c'era con noi Andrea Agnelli, e io rimango fermo a quelle considerazioni, e cioè alla Juventus si valutano i risultati. Vincere, diceva Agnelli, te lo ricordi anche tu, non è importante, è l'unica cosa che conta. Quindi Sarri verrà valutato alla fine di questa stagione sulla base dei risultati che avrà ottenuto. Non ha senso adesso dire Sarri rischia, la Juventus cambia allenatore, non lo cambierà mai. Arrivi in fondo con questo allenatore, e poi verranno fatte delle valutazioni sulla posizione dell'allenatore, e verranno fatte delle valutazioni sulla posizione di quelli che hanno scelto questo allenatore. Mi sembra molto lineare, non so se sei d'accordo Giovanni. Sì, anche se Agnelli ha anche detto in quell'occasione, alla Juventus i piani sono triennali quando si fa una progettazione. È vero però che se poi ci sono degli evidenti segnali di una crisi di rigetto, non so Nando come la pensi tu, sì, ma no, ma c'è anche l'idea che si possa intervenire prima. Cioè, i progetti sono triennali, ma durante l'anno si fanno delle valutazioni sui rapporti dell'allenatore con la squadra, su quello che la squadra produce a seconda dell'idea dell'allenatore. È vero che la Juventus ha nel DNA soltanto la vittoria, ed è giusto che sia così. La Juventus è stata sempre così, sono d'accordo. È stato criticato Allegri 5 anni perché giocava male, ma alla fine ha portato a casa 5 scudetti, 3 Coppa Italia, 2 finali di Champions League. Quindi il giocare male è sempre soggettivo, perché non so cosa vuol dire giocare male e poi vincere, quindi vuol dire che non si gioca proprio tanto male. Ma in questo momento dalla Juventus, dopo un mercato così, e dopo che la società aveva scelto Sarri per vincere ma anche convincendo, forse questo sta un pochino latitando. Ecco, forse l'allenatore deve trovare delle soluzioni diverse per far sì che questa Juve possa dare qualcosa in più anche sotto il piano della manovra, che mi è sembrata contro il Napoli e contro il Milan un po', come si dice, un po' fangosa, un po' involuta, melmosa, cioè ristagnante, ecco. Quindi. Sì, un po' troppo orizzontale. Grazie Nando. Sì. Ciao ragazzi, arrivederci. Buona ciao bella. Ciao, grazie Nando Orsi. VAR Anatomy. VAR Anatomy con Luca Marelli. Non può essere espulsione. E quello comunque ha portato a fare una partita di sacrificio, però ragazzi, di nuovo splendidi in tutte e due fasi, no? Prima dove dominavamo totalmente, e seconda dove hanno saputo soffrire e portare il risultato a casa. VAR Anatomy che riparte con la prima polemicuccia piccola legata a una decisione arbitrale. Luca Marelli, ciao, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Allora, la voce che abbiamo sentito era quella del tecnico del Verona Juric, che contestava l'espulsione di Borini, 34esimo del primo tempo, dopo contrasto con Rogue e chiamata del VAR Aureliano. Allora, ci aiuti a capire se è corretta la scelta del rosso? Qualcuno ci ha visto un provvedimento un po' esagerato, Juric di sicuro, ma non solo. Ma guarda, a livello tecnico la decisione è assolutamente corretta. Il regolamento, dobbiamo ricordare che distingue tra due fattispecie del cartellino rosso, che sono la vigoria sproporzionata, che viene definita fallo grave di gioco, e la condotta violenta. È chiaro che in questo caso non ci sia stata volontà perché se ci fosse stata volontà sarebbe stata una fattispecie di condotta violenta che non esiste, che, cioè, che presuppone la volontà comunque di entrare in modo scomposto e di mettere a rischio la salute e l'integrità dell'avversario. Il regolamento è strutturato in maniera tale che, oltre a regolamentare tutto il resto, deve anche preservare la salute e l'integrità fisica dei giocatori. Questo è uno di quei casi. È chiaro che Borino non avesse intenzione di fare del male, ma è anche vero che, una volta rivista l'azione, il fallo grave di gioco è abbastanza chiaro. Ricordiamo un paio di episodi simili sui quali si discusse: Donati contro Subarella in Lecce Inter e Stepinski su Mosacchio, ve lo ricordate? Sì. In Verona Milan. Stepinski fu caso, espulso, se non ricordo male. Esattamente. Stepinski fu espulso dopo VAR, dopo on field review. Perché è lo stesso concetto, anche se Pinsky. Mentre Donati a Lecce fu, diciamo, a questo punto perdonato. Sì, anche perché Giacomelli venne richiamato anche in quel caso all'on field review e decise di confermare il cartellino giallo che aveva esposto a Donati in tempo reale. Carlo, come ti sembrano questi arbitraggi dopo la ripresa? C'era una certa preoccupazione legittima, perché non solo i calciatori sono rimasti lontani dall'attrezzo, e cioè dal pallone, per 3 mesi, ma anche gli arbitri sono rimasti lontani dal campo, e arbitrare non è solo correre e avere una buona condizione fisica. Bravo, perché è esattamente la domanda che di genere, che poi torniamo alla specie se volete, ma la domanda di genere che volevo fare a Luca Marelli. Allora, 2 semifinali più la finale di Coppa Italia, le 2 partite di ieri, volevo chiedere a Luca come valuta, con un occhio che è molto più clinico del mio, la condizione degli arbitri così a sensazioni in queste 5 partite. Allora, praticamente non male, anzi ti dirò che ho visto Orsato molto più snello, molto più asciutto rispetto alla 3 mesi fa, probabilmente perché ha risolto qualche problemino fisico che si portava dietro da parecchio tempo. Li ho visti un po' arrugginiti dal punto di vista tecnico, perché c'è un problema per gli arbitri. Se i giocatori in allenamento comunque possono provare la tecnica col pallone, gli arbitri hanno soltanto un modo per allenare la tecnica, cioè scendere in campo. E dopo 3 mesi, che è una pausa che nessuno ha mai affrontato, a meno di infortuni, è abbastanza normale che si sia un po' di difficoltà. Togliamo Doveri, che è stato veramente perfetto nella finale di Coppa Italia, sia Orsato che Rocchi nelle prime 2 partite, nel primo tempo hanno un po' hanno fischiato bene ma non benissimo, nel secondo tempo molto meglio. Lo stesso abbiamo visto ieri sera, anche se devo dire che sono state 2 partite molto differenti. Quella di Radi è abbastanza semplice tutto sommato, quella di ieri sera è stata una partita molto difficile, infatti Manganiello non mi è dispiaciuto, semplicemente mi ha lasciato molto perpresa la gestione dell'on-field review, perché è apparso un po' troppo titubante, e questo è un difetto che deve eliminare. In generale non l'ho visti male, atleticamente l'ho visti bene, tecnicamente aspettiamoci nelle prime 2-3 settimane qualche problemino di più rispetto a come abbiamo lasciati, è normale. E poi dobbiamo aspettarci anche delle sovrapprestazioni. Allora, io correggimi se sbaglio, questa sera, tra poco più di un'ora, Atalanta-Sassuolo, l'arbitro è Chiffi, che domani dovrebbe fare il VAR di Rocchi in Bologna-Juventus. Esatto, sì, è vero. Ma è abbastanza normale, perché come sappiamo l'AIA ha deciso di limitare il più possibile le trasferte, e questo dà la possibilità agli arbitri di arrivare con i propri mezzi e di recarsi allo stadio con i propri mezzi. In questi 2 mesi, anzi 1 mese e mezzo, ci sarà sicuramente un sovraccarico di lavoro per gli arbitri. Credo che Rizzoli farà in modo di farli arbitrare al massimo una volta a distanza di 7 giorni, cioè facendo di saltare il turno, facendo di turni non fissi ma arbitrare quasi. Arbitrare intendi scendere in campo. Scendere in campo, sì, e per evitare che anche loro si vadano incontro a qualche infortunio muscolare, perché attenzione, anche gli arbitri possono rischiare di infortuni muscolari, perché in un periodo di questo genere arbitrare ogni 3 giorni è rischioso un po' per tutti. Rocchi nella semifinale ha avuto un indurimento. Sì, in realtà lì è stato uno scontro fortuito con Mertens, rivedendo le immagini, me l'avevano fatto notare, non me ero accorto neanche io. Poco prima, sulla tre quarti offensiva del Napoli, Mertens non ha visto Rocchi, l'ha preso su una coscia, quella che noi chiamavamo la vecchina, no, quando eravamo giovani. E poi gli è passato, infatti è stato semplicemente fatto medicare, ma niente di grave, fortunatamente, tanto è vero che domani sera sarà in campo a Bologna. Questa sera in Inter-Sampdoria c'è Mariani arbitro, Mazzolini al VAR. Domani, come detto, a Bologna per la Juventus c'è Rocchi. Aspettiamo le altre designazioni, però mi pare chiaro che sono tutte partite considerate ad altissima difficoltà, e quindi o l'arbitro o il VAR ci vanno i più esperti, perché credo, no, Luca, ci sia la piena consapevolezza da parte di Rizzoli della difficoltà di questa ripresa e di che cosa ci sia in ballo. Sì, secondo me ha anche ben presente il fatto che perlomeno nei primi 10-15 giorni non sapremo neanche quali sono le vere condizioni dei giocatori e delle squadre, e l'abbiamo già avuto un assaggio in queste prime giornate, perché per esempio io non credo che, per fare un esempio, la Juventus sia quella vista in Coppa Italia, però proprio per aver visto la difficoltà di alcune squadre si terrà in massima considerazione il fatto che si gioca lo scudetto, la Champions e anche la retrocessione, anche se due squadre sembrano abbastanza lontane. E diventano tutte partite di prima fascia. Carlo? Giovanni. No, volevo dire, se mi consente un momento paperissima, non so se Luca ha visto l'altra sera il rigore che è stato concesso e poi giustamente negato con il VAR, ma una roba clamorosa al Manchester United negli ultimi minuti della partita con il Tottenham, con Mourinho che va su tutte le furie. Ci si è pensato anche un po' sopra prima di andare al VAR su un rigore che secondo me era simulazione dell'attaccante. Non so se l'hai visto, Luca. Sì, l'ho visto, ma ti segnalo anche una particolarità. L'arbitro Moss, mi pare che fosse, non è andato al VAR, non ha effettuato un field review. Ancora una volta, anche alla ripresa, in Premier stanno facendo come gli pare. Il rigore è stato tolto non dopo un field review, ma semplicemente con la comunicazione del VAR. E credo che all'IFAB non siano contenti. No, ricordo che quello che ci disse Pierluigi Collina a questi microfoni un paio di mesi fa, quando si discuteva delle presunte variazioni al protocollo VAR che non ci sono state, semplicemente c'era questo richiamo, perché insomma il tema era dovranno mettersi in testa tutti che il protocollo è uno e il VAR si usa nella stessa maniera in tutto il mondo. Evidentemente gli inglesi ancora fanno fatica ad abituarsi. Grazie Luca. A voi buon lavoro. Ciao. Grazie. Ciao Luca Marelli. Allora ci fermiamo un minuto, torniamo sulla Juventus con Alessandro Birindelli. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Aspettiamo prima di dare per morta la Juventus. La vecchia signora, come ha dimostrato negli anni, non muore mai, detto da un interista, A quest'ora Allegri gongola di brutto, però non facciamo soltanto il processo a Maurizio Sarri, facciamolo anche a quel fenomeno di Cristiano Ronaldo, non è riuscito nemmeno a tirare in porta, se no un tiro in diagonale dentro l'area di rigore parato da Meret. Alla Juve un allenatore che dice in conferenza stampa: mi sono rotti i coglioni di questo, mi sono rotti i coglioni di quello, non ci può stare, non è da Juventus il suo stile, punto. La società dovrebbe semplicemente dire ai giocatori: ascoltate, questo è l'allenatore dei prossimi 2 anni, quindi regolatevi, chi si applica bene, chi non si applica, quella è la porta. Voci della settimana da incubo dei tifosi della Juventus. Alessandro Birindelli, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, hanno ragione o esagerano? Ma quando le cose non vanno bene o è abituato il pubblico e i tifosi a un certo tipo di trend, chiaramente quando poi incontri delle difficoltà durante la stagione ci può stare chi si lamenta. Più dell'allenatore, più che delle scelte della società, più che del rendimento di qualche giocatore. Ricordiamoci però che la Juventus è ancora in corsa per la Champions, è prima in campionato, quindi diamo tempo ai giudizi a fine anno, insomma, quando questa squadra avrà fatto il suo percorso completo insieme all'allenatore. Carlo? Mi sembrano, Giovanni, mi sembrano tutti abbastanza, cioè più o meno pertinenti le valutazioni degli ascoltatori e le obiezioni degli ascoltatori. Chiaro, mettere in discussione Cristiano Ronaldo mi sembra eccessivo, francamente. Però tutto il resto ha un senso. Ora vale quello che abbiamo detto prima, cioè le valutazioni su Sarri e su chi lo ha scelto, ripeto, verranno rimandate al momento in cui si avranno i risultati in mano. Però io chiedo anche ad Alessandro se sinceramente un tifoso juventino a quest'ora della stagione, è chiaro che quest'anno è molto strano, però a quest'ora della stagione si era divertito di più con Max Allegri o si è divertito di più con Maurizio Sarri? No, allora, secondo me ci sono da fare delle valutazioni se vogliamo poi andare a giudicare il lavoro di un allenatore e basta. Secondo me ci sono delle componenti di inizio anno che sono state sbagliate, cioè anche le tempistiche della scelta di alcuni giocatori e poi la scelta dell'allenatore dopo, in un secondo momento, perché tutti sappiamo che la prima scelta non era Sarri, quindi la Juventus pensava di portare a Torino un'altra figura, un altro prospetto. Questo non è accaduto, quindi Sarri è arrivato, si è dovuto adattare. Qualche colpa secondo me ce l'ha, perché alcune situazioni tattiche lui continua a dargli una lettura, mentre qualche giocatore preferirebbe interpretare in un'altra maniera, quindi un po' di dissidi sotto questo aspetto ci sono. Ma la cosa che a me proprio risalta agli occhi quando vedo questa squadra, che è una squadra senza anima. A me mi sembra di vedere una squadra senza anima, nel senso che sì, predominio territoriale, possesso palla, cioè quasi come dire sì, abbiamo la partita, la possiamo risolvere in qualsiasi momento, però poi quando c'è da decidere non si decide, o comunque si pecca in presunzione o mancanza di cattiveria, di concentrazione nelle due aree, quella difensiva e quella offensiva. Quella offensiva noi c'entriamo ben poco, pochissimo se non negli ultimi periodi, okay? A meno che qualche situazione individuale o qualche sprazzo. Sarri continua a parlare di brillantezza, eh? Sì, infatti, sì, ma non è solo una brillantezza fisica, secondo me proprio anche l'atteggiamento che ha la squadra nella ricerca di un risultato. Te puoi star male fisicamente, però fai un fallo in più, fai una partita un pochino più sporca e meno spettacolare, aspetti la squadra avversaria anche un pochino indietro per poi sfruttare la velocità degli uomini che ti hai, dai Cristiano Ronaldo a Douglas Costa a Bernardeschi e altri. E questo non lo vedo una squadra che entra in campo, sì, che gioca, giochicchia, ti dà l'impressione che potrebbe fare gol da in qualsiasi momento, però poi quando ci sono degli episodi non li sfrutta, e quando c'è in area di rigore avversaria, e quando succede un evento negativo 9 su 10 subisce gol, cosa che prima non accadeva. Adesso vi faccio sentire che cosa ha detto Sarri a proposito di Ronaldo. Abbiamo parlato prima della partita in Milan, abbiamo parlato prima della partita di Roma, di Coppa Italia, abbiamo riparlato ieri. È chiaro che lui è un ragazzo che ha fatto 700 gol partendo leggermente defilato, quindi è chiaro che la sua preferenza è quella, ma questo penso sia nell'assoluta normalità. Con il Milan siamo andati a quella soluzione, nella partita, nella finale di Coppa Italia ho chiamato i tre ragazzi che avevo scelto di far giocare davanti e ho parlato con loro di quello che dovevamo fare in campo, e poi analizzando con loro hanno deciso anche loro di provare a partire con la soluzione di Dybala più centrale. Alessandro, ma non è un po' un paradosso, oltre che un problema, che dopo un anno, perché adesso è un anno che Sarri lavora con la Juventus, ci sia ancora questo tema di CR7, CR9, cioè della posizione di Ronaldo e di un rapporto che onestamente non è decollato tra i due? Ma io penso che un allenatore, la bravura di un allenatore sia anche vedere quali sono le caratteristiche di un giocatore, un'evoluzione che ha avuto un certo tipo di giocatore. Se parliamo di Cristiano Ronaldo, è vero sì che partiva da sinistra nel Real Madrid o negli ultimi anni anche nella Juventus, però comunque lui aveva campo davanti da fare, quindi lui quando si mette in moto a campo ad sprigionare questa corsa, da sterzare e tirare in porta, secondo me è ancora un giocatore devastante. Il problema è che te porti Ronaldo a sinistra fermo e gli fai arrivare in palla quando c'ha già tutta la difesa schierata avversaria. Quindi secondo me lui ora non ha più quella brillantezza di saltare in uno contro uno nello stretto l'uomo o di terminare in quelle situazioni. lui può determinare quando viene chiamato a sprintare, ad allungare, fare un dribbling secco in velocità, ma quando è fermo, secondo me, se lo porti a ricevere palla da fermo, secondo me è un giocatore prevedibile. Per me, ripeto, perché ha avuto questa, come tutti abbiamo un inizio di percorso dove comunque hai una freschezza atletica, hai un dinamismo, una reazione, una reattività diversa da quella che poi negli anni, quando gli anni passano, può venire a mancare, però ha sempre caratteristiche importanti sfruttate in una certa maniera. Secondo me non è colpa tanto di Ronaldo o di Sarri, secondo me si sono trovati in tempi sbagliati, questo è. Sì, il che non è una buona notizia per la Juve, no Carlo? Cioè, se questa è la lettura delle difficoltà di Ronaldo ad adattarsi ad altri ruoli, o della difficoltà della Juventus di adattarsi al nuovo Ronaldo? Giovanni, ma guarda che la lettura di Alessandro Birindelli, e questo non mi sorprende, è stata perfetta. Cioè, lui ha elencato le cose che alla fine la Juventus di Allegri aveva, cioè malizia, un pizzico di cattiveria in certi momenti, grande... capacità di leggere le situazioni in maniera molto semplice, molto schematica, e anche non ha... È caduta la comunicazione, la recuperiamo. Ultimo tema che riguarda la Juve, Alessandro Pjanic. Oggi Sarri ha smentito lo screzio, l'aveva scritto la stampa questa mattina, uno screzio in allenamento con Pjanic. Mi piacerebbe però sapere che impressione ha fatto a te il centrocampista. C'è chi lo vede tra le vittime di questo mercato allungatissimo, ma e quindi allora, un po' qui, distante di testa dal campo. Certo, qui secondo me c'è da capire quanto siano vere e veritiere le voci di una sua cessione al Barcellona. Quindi se io società, io staff, so che questo ragazzo comunque tra due mesi o quello che sarà non farà parte più del progetto, io chiaramente devo valutare se metterlo in campo, anche perché poi devo valutare la sua il suo stato mentale, di come può affrontare questi due mesi, se è sereno, se non è sereno. Dall'altra parte poi c'è anche un giocatore che in questo momento forse è uno dei più in forma, è quello che ha dimostrato maggiori miglioramenti nella sua crescita, quindi Bentancur, quindi voglio dire, il problema è sempre lì, è come ci si comunica all'interno, qual è la comunicazione. Cioè, noi possiamo presupporre qualcosa per quello che vediamo in campo, però noi il quotidiano non lo viviamo, non sappiamo cosa si dicono, non sappiamo se è vero questa eventuale cessione o questa trattativa. Ma però noi sappiamo che la Juve non può fare a meno di Pjanic. Al di là della sua condizione, nelle prossime, la Juve ha dalle 12 alle 16 partite da giocare, tutte decisive. Ho capito, ma allora non doveva tirare fuori questa situazione di mercato? Comunque doveva dire, guarda, c'è questa situazione, bisogna... È anche un po' vittima del momento, è la prima volta che si gioca con un mercato aperto per sei mesi di fatto. Sì, però qui da qui si vede poi le persone che caratterialmente sono forti. Cioè, te quando sei nella Juventus e vuoi ambire a essere un giocatore importante, cioè non ti puoi fare influenzare da queste voci. Se questo è il fattore scatenante per un momento di forma non buono da parte del giocatore, o c'è qualcos'altro, non scordiamoci, non dimentichiamoci che lui viene da un infortunio e poi da una ricaduta, perché all'inizio dell'anno era il fulcro del centrocampo, era il perno, era l'uomo di Sarri. Poi chiaramente dopo l'infortunio e dopo la ricaduta poi non è riuscito più a giocare con quella continuità o ritrovare uno stato di forma eccellente o buono che gli permettesse di ritornare allo standard iniziale. Quindi, cioè, le valutazioni facciamole, però poi ripeto, possono essere supposizioni fino a un certo punto, però fino in fondo noi non è che possiamo dare la certezza che sia così. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Birindelli, anche perché l'altra valutazione, Carlo, è che la rosa extra large della Juve, soprattutto in alcuni settori, il centrocampo è uno di questi, poi forse così tanto extra large non è. No, però torniamo ai problemi di gestione da parte di Sarri, perché anche la gestione del caso Pjanic non mi sembra sia stata esemplare dal punto di vista dell'allenatore. Cioè, è chiaro che Pjanic è sul mercato, ma non ho sentito grandi difese, grandi prese di posizione di Sarri nei confronti di un giocatore così importante. Dunque io credo che anche dal punto di vista della gestione, proprio così, dei rapporti, Sarri, non so se la pensa allo stesso modo, qualche responsabilità fin qui ce l'abbia. Sì, anche se nel caso di Pjanic io credo incida molto di più la variabile del mercato, che è una delle due o tre variabili che decideranno la stagione, l'altra è la variabile infortuni. Inutile girarci intorno, vale per la Juventus, ne abbiamo parlato tanto per il Milan su Ibrahimovic, vale per l'Inter che in un colpo solo in 24 ore ha perso due centrocampisti, Sensi e Brozovic, e perderli anche per 10-15 giorni vuol dire in questa condizione di calendario saltare 3-4-5 partite e rischiare magari di mettere in pericolo un po' tutto il progetto e un po' tutte le ambizioni. Nel caso di Pjanic la variabile mercato, così come per l'Inter con Lautaro Martinez, è effettivamente una variabile difficile da gestire. Vi ricordo che a Parigi Cavani e Meunier ad esempio non giocheranno la Champions League perché non andranno oltre la scadenza del 30 giugno, non hanno trovato l'accordo, e anche questo è un tema su cui riflettere. Allora ci fermiamo, ultimo traffico, poi a Bergamo dove alle 19.30 torna in campo l'Atalanta. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Rinascerò, rinascerai, quando tutto sarà finito, torneremo a riveder le stelle. Rinascerò. Allora, queste sono le note che tra 40 minuti risuoneranno allo stadio di Bergamo, dove non si torneranno a rivedere le stelle, ma si ritornerà a vedere l'Atalanta, seppure senza pubblico. Gollini, Caldara, Gincsiti e Palomino, Atebor, Darun, Freuler e Gosens, Gomez, Pasalic e Zapata, questi i primi 11 che faranno rotolare il pallone a Bergamo, che è la città simbolo della pandemia. Saluto Matteo Magri, collega del Corriere della Sera. Ciao Matteo. Buonasera a tutti, ciao. Uno dei pochi testimoni di quello che accadrà, pochi perché ovviamente c'è da applicare un protocollo che è rigidissimo. Ci racconti un po', sento già dal sottofondo che sei allo stadio, che cosa sta succedendo, qual è un po' l'atmosfera? Allora, beh, come puoi immaginare, l'atmosfera è molto strana perché lo stadio è ovviamente quasi deserto. Ci sono solamente 10 giornalisti più gli operatori TV. Adesso sta entrando il Sassuolo per il riscaldamento. È una situazione, diciamo, un po' irreale, come puoi immaginarsi. Qualche tifoso, soprattutto ultra, fuori dallo stadio, però tutto tranquillo, insomma. Ha un valore particolare, no, per Bergamo il ritorno in campo? Direi di sì, ha un ritorno particolare perché è un altro tassello, diciamo, verso un ritorno alla normalità. Come ben sapete, la città e provincia è stata particolarmente colpita dal coronavirus e la speranza di tutti è che anche il calcio in qualche modo possa dare una mano a tornare alla normalità. Ieri Carlo mi è parso di vedere un Gasperini particolarmente toccato, no, dall'idea di tornare in campo. Sì, però chiudiamo con un po' di demagogia, magari spicciola Giovanni, è bellissimo vedere in questo momento tornare in campo il prodotto più incredibile della città di Bergamo sportiva di quest'anno. Quindi in quest'anno così devastante, rivedere, siamo un po' grati a tutti, con un campionato che riprende, rivedere in campo l'Atalanta secondo me è davvero un simbolo bello, cioè vuol dire rivedere il fiore più bello di questa città. Matteo, come sta l'Atalanta? Ma penso bene, si sono allenati duramente perché come sapete la preparazione, insomma, gli allenamenti con Gasperini sono particolarmente duri, sta abbastanza bene anche se c'è notizia proprio fresca che non ci sarà Ilicic a causa di una distorsione alla caviglia, quindi al suo posto giocherà Pasalic. Quest'idea di provare a regalare a Bergamo un altro sogno, sia in campionato e poi ad agosto proiettandosi sulla Final Eight di Champions League, fa parte della retorica di questo momento o da quello che hai percepito lo sentono davvero Gasperini, i giocatori, la società, tutto l'ambiente? Secondo me lo sentono davvero tutti, anche perché la maggior parte dei calciatori comunque durante la quarantena è rimasta a Bergamo e quindi ha vissuto, se vuoi, in prima persona quanto insomma, quanto è successo qui in città. Non è la solita retorica, poi secondo il mio modesto parere è una squadra che ha comunque le potenzialità, insomma, per ripetere almeno in campionato quanto fatto di buono nelle scorse stagioni. E magari, invece, ovviamente, magari per sognare di fare il colpo anche lì. Quello sì, dipende da tantissimi fattori, dipende dall'avversario, da come arriveranno l'agosto, insomma, dipende da tanti fattori, però sono convinto che anche in quella competizione, in quell'occasione, la squadra cercherà di fare tutto. Grazie Matteo. Grazie a voi, buona serata. Grazie Matteo Magri dallo stadio di Bergamo, Corriere della Sera 19:30, Atalanta contro Sassuolo, 21:45 Inter contro Sampdoria. Questo è il menù della prima domenica di Serie A dopo il Covid. Carissimo Carlo, io ti restituisco il microfono domani a partire dalle 14. Sì, ci sentiamo domani naturalmente alle 14, sarà una domenica sera bellissima e aggiungo soltanto che l'Atalanta è quella di tutte quante che ha un ulteriore vantaggio, cioè quella di correre molto libera e solo con motivazioni magari pesanti ma positive. Giovanni, ci sentiamo domani, ovviamente anche con te nei prossimi giorni. A domani, ciao Carlo. Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Roberta Frisani e Valeria Bernardi che si sono alternate in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima regolarmente in diretta a partire dalle ore 17. Ciao! E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!